posso restare seduto in disparte, né arte né parte. Non un po' come facciamo io e Deborah quando non c'è una, l'altra fa anche la parte. L'ho lasciata sola per 45 minuti. Ho fatto un po' rene, vedi? Un brivido dentro e correrti incontro. In sostanza bisogna capire se fate poca pipì o pipì abbastanza. Ecco, è la pipì che alla fine fa quadrare i conti. Passi le notti. Quindi a Ettore un libro, cuore o denari, Ettore? Grazie. Non ce lo di cuore. Mi sveglio distrutto, però io ci provo. Vedi che sono un po' dutura. Certo. Perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi avvolgo. Invece di canticchiarla adesso, perché ti vedo lì nascosta. La so tutta. Tu qua cosa cantavi quando andavi in gita in pullman? Un repertorio, dipende dal periodo. Tipo, ricordamene allora, una. Allora, dalle canzoni degli Alpini, certo. Quando ero piccola, perché la mia nonna guidava e ci faceva cantare quelle, quindi anche quando ci portava in gita, e poi De André, Guccini, Azzurro, quindi Celentano. La macchina del capo ha il buco nella gomma? No, io mi ricordo solo quella, quando andavi in colonia, pensa tu, cioè praticamente nella preistoria. Tanti di noi ricordano con piacere questi momenti e li abbinano magari ai tempi appunto della scuola, delle colonie estive, ma c'è anche un buon numero di italiani che di lunghe gite in pullman ne ha fatte anche per motivi legati ai denari, precisamente alla sua banca di appartenenza. Mi riferisco al popolo, se vogliamo chiamarlo così, delle banche popolari, banche in cui il voto di ogni socio vale uno, che quindi hanno visto fino ad ora riunirsi i soci azionisti in popolatissime assemblee che spesso venivano raggiunte appunto proprio da grandi comitive a bordo di pullman. È notizia di questi giorni che le 10 maggiori fra queste banche dovranno trasformarsi nel giro di 18 mesi in società per azioni, un cambiamento storico che sicuramente non lascerà indifferenti questi tanti piccoli azionisti. Oggi nella pagina di denari cercheremo di capire insieme di che cosa si tratta. Anche nella seconda parte della trasmissione vi invitiamo a restare con noi, iniziare a prenotare i vostri interventi. Parliamo di cambiamento, facciamo infatti un bilancio per capire quanto l'attività sportiva che pratichiamo, per dovere o per piacere, ci ha cambiato, quali vantaggi abbiamo avuto e a quali rischi invece ci ha esposto. Insomma, siamo soddisfatti o delusi? 800 24 0024, diteci che attività fisica praticata, perché l'avete scelta, quali cambiamenti avete notato nel corpo e nella mente. Tante volte abbiamo sentito paragonare l'attività fisica a un farmaco naturale in grado di mantenere, di promuovere la salute e il benessere, ma come tutti i farmaci esiste un limite di sicurezza nelle dosi, oltre il quale gli effetti avversi dell'esercizio fisico possono superare i benefici. Allora, voi siete sicuri di praticare il vostro sport preferito nei modi e nei tempi corretti? Chiamateci e mettete le vostre storie a disposizione dei nostri esperti. Interveniamo sulle banche popolari. Non su tutte le banche popolari, ma sulle banche popolari con gli attivi superiori a 8 miliardi, ho detto bene? 8 miliardi, sono 10 banche in Italia, sono 10 banche popolari, dovranno nell'arco di 18 mesi trasformarsi in, superare il voto capitario e trasformarsi in società per azioni. Queste le parole di Matteo Renzi proprio di pochissimi giorni fa, parole che ci portano al tema di oggi per quello che riguarda la pagina di denari. La riforma del credito ci serve su un piatto d'argento, due argomenti che senz'altro non possiamo ignorare a cuore denari. Uno è tutto il capitolo della portabilità dei conti correnti, di cui ci occuperemo lunedì, quindi Nicoletta lo anticipiamo già, a beneficio dei nostri ascoltatori. L'altro tema è appunto la riforma delle popolari che mettiamo al centro della giornata di oggi. Ci chiederemo che cosa implica questa rivoluzione questione della quale peraltro si parla da 10 anni e più, cambiano un po' di cose, intanto perché questa notizia potrebbe mettere in moto una nuova stagione di aggregazioni bancarie italiane, poi perché, come sanno bene i diretti interessati, il mondo delle banche popolari ha migliaia di piccoli azionisti sparsi su tutto il territorio, che hanno sempre partecipato in massa e con grande attivismo alle assemblee della propria banca e che adesso avranno un ruolo diverso in questo contesto. Ci mettiamo il punto di domanda. La riforma abbatte il cosiddetto voto capitario. Cosa vuol dire questo? Cosa significa per i piccoli soci, migliaia, dicevamo, in tutta Italia, di questo mondo? 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Giallello ci racconta: ho appena surrogato il mutuo con la Popolare dell'Emilia Romagna. Devo preoccuparmi? Calma e gesso. Paolo Zucca, plus 24 del Sole 24 Ore. Intanto sgombriamo il campo da ogni timore. Buongiorno. La banca, se dovete il mutuo alla banca, state sicuri? Buongiorno a tutti. Per fortuna stiamo discutendo di cambio societario, di governance. Non c'è una banca in difficoltà. Quindi tranquilli almeno da questo punto di vista. Poi i problemi o le opportunità sono altri. Infatti. Allora, Nicola Nunziata, responsabile dell'ufficio studi di JCI Capital, buongiorno e benvenuto, anzi ben ritrovato, perché a Salvadanaio lo tempestavo di telefonate e lo facevo venire un sacco di volte in trasmissione. E a Corredenari poi l'ho abbandonato e adesso lo abbiamo ripescato. Le donne sono grazie così. Grazie per avermi richiamato. Allora, buongiorno a tutti. Anche perché in questi giorni si è molto attivamente occupato di questo tema che ha campeggiato su tutte le pagine di tutti i giornali, peraltro provocando anche una vera e propria corsa dei titoli in borsa, dei titoli delle banche di questo tipo, appunto quotate naturalmente, titoli che oggi in realtà si prendono invece una pausa abbastanza consistente, sono tutti in calo di circa 3 punti, abbiamo le tradizionali e consuete e attese prese di benefici e poi c'è Asso Popolari che ha intenzione di mettersi di traverso a questa riforma, probabilmente durante la discussione in Parlamento emenderà in qualche maniera il provvedimento, per l'appunto vedremo come. Allora Paolo, immagino intanto che domani a questo argomento dedicherete una bella pagina su Plus 24, con noi che parliamo taglio? Di banche e poi c'è un commento alla vicenda delle popolari. Sulle popolari si è detto che il provvedimento può essere stato preso per favorire il Montepaschi e è Banca vero. Carige, che sono due banche società per azioni in difficoltà. Io non credo che questo sia possibile, cioè fare un decreto legge d'urgenza per risolvere due banche, e non credo quindi che sia questa la motivazione. Credo che forse il governo sia stufato dei ritardi delle popolari. Che ritardi hanno? In che senso? Nel senso che da più di 10 anni, dai quasi 20, stanno discutendo di riforma, di ampliamento delle deleghe, di apertura maggiore agli investitori istituzionali. E non avendo nessuno che li pressava alle spalle, insomma, come dire, si prendevano i tempi che volevano. Il governo è intervenuto con un decreto legge, questo è un passaggio molto forte. Io credo che il cuore dei risparmiatori abbia fibrillato un po', ma anche in bene, perché i titoli sono saliti. Esatto. Quello dei banchieri invece abbia avuto una fitta. Le poltrone traballano. Le poltrone traballano e gli anziani cuori dei banchieri popolari abbiano avuto una fitta. E questo, subito peraltro, una puntata sul cuore dei banchieri. Dici, se magari proviamo anche ad invitarne qualcuno. Guarda, certo, che io raccolgo la sfida e non me la lanciare così. La pressione, sentiamo il polso, diamo dei suggerimenti. Perché il decreto legge, che deve essere convertito naturalmente entro 60 giorni, impone dei tempi molto stretti, quindi 2 anni possono sembrare pochi o tanti, però entro 2 anni dovremmo avere questa rivoluzione. Questi ritardi nel riformarsi, si parla di questa riforma appunto, come dicevi tu Paolo, da almeno un ventennio, sono riconducibili a quale motivazione? Proprio perché queste banche hanno rappresentato anche a lungo luoghi di potere sui territori appunto su cui operavano, non trascurabili, immagino. Sì, per un lungo tempo le banche popolari sono state difese, protette, soprattutto nella gestione di Antonio Fazio della Banca d'Italia. E hanno mostrato dei limiti, così come le banche SPA hanno mostrato dei limiti, perché io non direi che c'è un modello peggiore dell'altro, direi che ci sono delle conduzioni, ci sono delle incrostazioni, sicuramente un mancato ricambio non favorisce l'efficienza, però indubbiamente non avevano nessun tipo di pressione, quindi se la prendevano comoda, se mi passi, certo, il termine, insomma. Certamente. Allora Nicola Nunziata, lo specifico subito, cercheremo di fare in modo di non fargli fare nomi specifici, anche perché ho intenzione di chiedergli fra qualche istante però di spiegarci dal punto di vista dell'analisi finanziaria perché hanno corso così tanto in borsa le quotazioni appunto delle banche interessate. Lo ricordo, sono 10 e le cito io allora per tutti: il Banco Popolare, UbiBanca, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la Popolare di Milano, la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare dell'Etruria e Lazio e Popolare di Bari. Alcune quotate, alcune no. Intanto, perché queste 10? Senza fare i nomi, c'è la questione degli attivi superiori agli 8 miliardi. Ci traduce in termini semplici questo aspetto, Nunziata? Io farei un passo indietro. Volentieri, se serve per la chiarezza a beneficio degli ascoltatori, certo. Nel discorso programmatico del governatore della Banca d'Italia in occasione dell'assemblea del 31 maggio era stata presa una posizione decisa sulla riforma della governance delle banche popolari. Io credo che ci siano due ordini di problemi: il primo della dimensione degli attivi e il secondo il ricordo di quello che è successo dal 2008 in poi, nel senso, se dovesse esserci una crisi finanziaria e le banche avessero bisogno di capitale, non è detto che chi non ha una governance coerente con quella che richiedono gli investitori internazionali e istituzionali possano trovare i capitali di cui hanno bisogno. A fronte di attivi di dimensioni molto elevate, il trovarsi in alcune situazioni che possono essere probabilisticamente eventi rari, però che possono esserci, come abbiamo visto, potrebbe creare un rischio sistemico. Quindi nel momento in cui poi Banca d'Italia ha trasferito tutta una serie di deleghe alla Banca Centrale Europea, avere un gruppo di istituti di credito con delle regole molto diverse da quelle degli altri prevalenti in Europa, questo non va bene. Se poi queste sono di dimensioni particolarmente grandi, perché poi noi parliamo di popolari e di territorio, tutto questo è vero, però l'evoluzione che c'è stata negli anni è stata di sono presente in tutto il paese, sono presente anche in regioni che non sono territori realmente contigue tra di loro, ho delle sedi all'estero, faccio determinate operazioni straordinarie, allora ecco che per la Banca Centrale Europea diventa difficile accettare che ci siano delle governance che sono abbastanza lontane da quella che è la best practice del settore. Temi abbastanza complicati, ma che in ogni caso appunto ci aiutano a capire il perché si rende necessaria questa trasformazione, quelli che possono essere appunto i motivi più complessivi. Peraltro volevo chiedere anche agli ascoltatori se ci vogliono raccontare se sono degli azionisti e dei piccoli soci di queste banche, se hanno mai partecipato ad un'assemblea, in che modo hanno fatto sentire la loro voce, se ci sono state in questi anni delle decisioni della banca di appartenenza che in qualche maniera non era condivisa e se appunto la propria voce in questo senso è stata fatta sentire. Nunziata, perché lo potete fare, potete raccontarci queste cose naturalmente all'800 24 00 24. Nunziata, perché i titoli hanno corso tanto in borsa, perché si è accesa in questo modo la speculazione su questi titoli bancari? Allora partiamo dal presupposto che le banche italiane in termini multipli sono molto meno care della media delle banche europee. Questo probabilmente può essere legato al fatto che nell'ultimo stress test, al 31-12 le nostre banche erano tra quelle più lontane come paese, come somma di attivi, da quelli che erano gli obiettivi imposti dall'EBA e dalla Banca Centrale Europea. Poi europee, però, dopo gli aumenti di capitale, le nostre, tranne i due casi ben noti, erano a posto da questo punto di vista, però hanno mantenuto uno sconto in termini multipli. Le banche popolari avevano a loro volta uno sconto rispetto a Unicredit o Intesa, i due campioni in termini dimensionali di quelle che sono le banche, gli istituti di credito ordinari. E quindi il mercato, in queste situazioni, a fronte di una riforma così importante, tende a ragionare a cavalcare l'onda, l'opportunità in termini di multipli medi di mercato. Senta, lei lo sa che la parola d'ordine a cuore denari è chiarezza a beneficio dei nostri ascoltatori. Se dovesse tradurre per mio nipote che ha 7 anni il concetto del multiplo in borsa, come ce lo spiegherebbe? E il multiplo è un rapporto, se una società ha un un determinato patrimonio netto, capitale proprio, diciamo così, in rapporto a quella che è la capitalizzazione di mercato, cioè il numero delle azioni per il prezzo, ne deriva un multiplo. Eccolo. Tanto più basso in questo caso è il multiplo, tanto più si ritiene sottovalutata rispetto a quello che è un multiplo medio la società in questione. Allora Paolo Zucca, quello delle popolari, come dicevamo anche in apertura, è sempre stato considerato un mondo a sé, anche in risposta alla crisi degli ultimi anni, no? Le abbiamo sempre definite le banche vicine al territorio, quelle che non hanno mai fatto mancare credito a famiglie ed imprese. In realtà poi bisognerebbe analizzare ad una quello che hanno fatto. Non è vero questo, almeno per tutte, anche se magari hanno parato un po' meglio i colpi della crisi e hanno gestito meglio il cosiddetto credit crunch, cioè quando proprio le banche hanno chiuso le porte a tutti, a imprese e famiglie, forse queste un pochino lo spiraglio lo tenevano aperto. Va ricordato anche il momento delle assemblee di queste banche, no? Molto partecipate. Qualche collega nei giorni scorsi su qualche altro giornale, oltre che sul Sole 24 Ore, ricordava proprio il fenomeno di quelle assemblee con i pullman, e so che tu in passato ne hai seguite tantissime. Ma in passato, ma anche recentemente. Sì. Beh, naturalmente dal punto di vista giornalistico sono molto colorite. C'è la famosa scena in cui il dibattito va un po' per le lunghe, magari non è particolarmente cattivo, ma un po' per le lunghe, e allora comincia a filtrare un po' il profumo del catering. Eh sì, e quindi in qualche modo risveglia e l'assemblea diventa più corta. Non dico che il catering entri in funzione quando si entra nei discorsi, diciamo, più delicati di vita societaria. Ma insomma c'è questo clima un po' da scampagnata, un po' da vedersi fra soci, fra colleghi della stessa zona. Questo, diciamo così, è l'elemento colore che naturalmente piace molto a noi giornalisti. Poi c'è il tema invece di sostanza, che è quello dell'espressione del cosiddetto voto capitario. Sì, anche nel colore io dico però che se un cittadino italiano, possessore di tot numero di azioni, decide quella mattina di partecipare a un'assemblea, che non è propriamente il luogo più divertente, sicuramente ce ne sono molti altri posti, io credo che un concetto di partecipazione vada un po' tenuto presente in questi ragionamenti che stiamo facendo sulla riforma delle banche popolari. Francamente, se io devo andare a un'assemblea insieme a tanti altri, il mio voto conta ormai nella visione SPA proporzionalmente al numero delle azioni, sono meno incentivato. Arriverà poi un funzionario di un fondo internazionale, di un'istituzione eccetera, che alzerà la mano dicendo io voto per questo o non voto per questo, e tutti i miei discorsi vanno un po' persi. Sì. Con il voto capitario, che forse non è facile da spiegare. No, però per capire, se io sono per esempio una socia della Popolare di Paperopoli, così tanto per mi sembra la banca giusta, esatto. Ecco, esatto. E mi oppongo ad una decisione di un manager invece di alta ridondanza della banca, insomma, conta qualcosa questa mia espressione? No, dice no, Nunziata. Guarda, Nunziata ti guarda come per dire ma che domande fai? No, può avere un senso, è chiaro che tu singolarmente fai un intervento anche molto duro nei confronti del presidente, amministratore delegato, quello prende atto, se vuole risponde, se vuole non risponde, però diciamo in termini operativi neanche adesso con una popolare puoi fare una cosa del genere. E non è che in una SPA non puoi intervenire in assemblea, non vorrei che ci fosse questo dubbio, si può andare là e dirne di tutti i colori. In termini, diciamo così, di potere, e questo era il voto capitario, è il voto capitario, in quel momento tu, anche se hai 200 azioni della tua banca di Paperopoli, conti come quello che ha 200.000 azioni della banca di Paperopoli. Allora, qui ovviamente le opinioni sono molto diverse. Io credo che gli investitori istituzionali che hanno investito nelle banche popolari, ci sono stati tantissimi in questi anni, sapessero che funzionava il voto capitario, che non è un'istituzione italiana, ma c'è in tutta Europa e in gran parte del mondo. Ci sono grandi banche internazionali in Europa che sono banche popolari, c'è un'assicurazione Italia cattolica che è popolare, quindi non facciamo un problema di modello, facciamo un problema di conduzione forse. È chiaro che la Popolare di Milano ci sono stati parecchi problemi perché il ruolo dei dipendenti è diventato eccessivo e noi abbiamo vissute quelle assemblee, c'era quindi uno strapotere, una componente rispetto a un'altra. Ma vi ricordo anche che nel Banco Popolare gli originali dipendenti della Popolare di Verona per statuto non possono votare. Quindi non tutti i gatti sono neri di notte, cioè voglio dire, andiamo un po' a vedere, c'è una crisi della Banca Popolare di Lodi molo profonda. Ci ricordiamo l'era di Fiorani. Ma ci sono state le crisi di Cassamarca, che è una SPA. In questo momento stiamo discutendo di due banche in difficoltà, di cui una è la terza banca per dimensioni, che è una SPA. Quindi E quindi insomma non facciamo di tutta l'erba un fascio, no, ma non credo, non so neanche modello, se questo se... proverbio calzi in questa conversazione. Detto questo, insomma, il tema è complicato, ma in ogni caso penso che questo 1,5 milioni di soci delle 70 banche popolari italiane in questo momento qualche domanda se la stiano facendo. Beh, ma stanno anche festeggiando, però scusami, eh. Dici anche? Beh, insomma, perché, i titoli allora, bancari, come è stato detto annunciato, esatto, prima erano particolarmente depressi. Io non so però quanto durerà questa quotate, di quelle quotate, però quelle no, non quotate bisogna capire come cambierà molto, adesso anche questo pacchetto che i soci hanno, come verrà molto, trasformato. Molto, sì, molto interessante, Deborah. Se posso concentrarmi un attimo sulle non quotate di queste 10, sì, non so se ho tempo. No, lo facciamo dopo i mercati, bene, vai, perché vai, sono vai, le 11.30. Cuore e denari. Camminare, nuotare, sciare, saltare, muoversi è un bisogno primario, proprio come mangiare e dormire, ma per avere un vantaggio in termini di salute e benessere psicofisico bisogna, bella mia Deborah, muoversi, sì, bene, come guarda, fai tu? Fatto step ieri sera, sono tutta rotta. Vietato improvvisare, farsi prendere la mano, pena il rischio di farsi male o di vedere azzerati benefici confermati da tutte le ricerche. Allora, qual è il modo corretto per avvicinarsi allo sport, per chi lo fa semplicemente per piacere o per tenersi in forma? Come fare per godersi l'attività sportiva riducendo al minimo i rischi e gli effetti collaterali? Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione a partire dalle 11.45. Intanto siate pronti, diteci che attività praticate, perché l'avete scelta, che cambiamenti notate? È scesa la pancetta, si sono irrobustiti i bicipiti, vi è tornato il buon umore, vi sembra di avere una migliore gestione dello stress, o invece vi manca il fiato, vi cede il ginocchio, vi fa male alla schiena, siete un po' demotivati? Restate con noi per sapere i consigli per non sbagliare e per prendere solo il buono dall'attività sportiva. Il nostro sistema bancario è solido, è sano, è serio. Lo dico a chi ci segue da fuori Italia, ma ha bisogno anche per questo di avere degli elementi di innovazione. Se c'è un marchio di fabbrica distintivo, un fil rouge che collega il governo, è esattamente questo. Quei tabù che nessuno aveva toccato, e tra le cose c'è sicuramente il fatto di poter toccare anche il mostro sacro e il tabù sacro del sistema del credito. Addirittura un mostro sacro, un tabù, così Matteo Renzi aveva definito pochi giorni fa il sistema del credito italiano. Stiamo parlando questa mattina nella pagina di Denari di questa trasformazione in SPA che riguarderà le 10 più grandi banche popolari del nostro paese. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione se siete piccoli soci o correntisti di una di queste banche. Cosa ha rappresentato per voi la vostra banca e quali dubbi avete alla luce di queste novità? Con noi Paolo Zucca, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore, Nicola Annunziata, responsabile ufficio studi di JCI Capital. Avevamo preannunciato l'intervento di David D'Arezzo, a cui si è aggiunto anche Angelo dalla provincia di Milano. David, buongiorno. Sì, buongiorno, innanzitutto è un piacere risentirvi, sono un abitué, eravate già brave da sole, insieme siete fantastici. Ma cosa dobbiamo regalare a David? Un libro. Due libri, uno di cuore e uno di denari, poi prendiamo tutti i suoi dati. Ben volentieri. La mia domanda per quanto riguarda le banche era questa: sono un correntista da alcuni anni di una delle banche interessate al cambiamento, nella quale sono diventato correntista perché mi hanno con un piccolo mutuo per la casa. Mm-hmm. E alla quale poi successivamente mi hanno proposto anche le azioni per diventare socio e ci ho fatto piccoli investimenti, insomma, e mi ci trovo bene e volevo sapere niente che comportamento posso devo adottare o se c'è qualcosa da non ce la voglio proprio dire qual niente. È Davide, così una curiosità, poi non commenteremo il caso singolo, ma è un po' proprio no, una curiosità non lo mia per no è la popolare di Vicenza. Grazie Davide, buona giornata. Naturalmente, allora, certamente per chi ha un conto corrente o un mutuo, Paolo, ribadiamo ancora una volta, sì, no, non cambia nulla, che creiamo degli equivoci in nessun modo, eccetera. Però è interessante che venga dalla Popolare di Vicenza questa domanda, perché è una delle banche, delle tre banche su 10, non quotata. Quindi innanzitutto bisogna dire che non, per avere, diciamo, dei servizi bancari, per essere cliente della banca, non necessariamente bisogna essere soci, ci possono essere vantaggi, ma non è così obbligatorio. Il problema in una popolare non quotata è una maggiore difficoltà nella movimentazione dei titoli, cioè viene buono un box che stavi cercando da tempo, un appartamento di fianco, puoi avere la necessità di vendere i tuoi titoli. Beh, se nel momento in cui Nicoletta mi spiega un passaggio della canzone Azzurro, io in un secondo riesco a vendere le azioni, le metto sul mercato, qualcuno certo. le comprerà. Nel caso invece di Popolare Vicenza, anche di Veneto Banca e anche di Popolare delle banche non quotate, è evidente che questo non è così facile. Bisogna trovare un socio che compri le proprie azioni. Certo. E questo in periodo di grande scioltezza, fluidità e tutto avveniva tranquillamente, anzi c'era una coda di gente che voleva entrare rispetto a quelli che volevano uscire. Adesso la coda si è invertita. Beh, per una serie di ragioni, non necessariamente legate all'istituto, alla banca, certo. eccetera, proprio alla disponibilità di denaro. Beh, questo meccanismo non lo possiamo fare nello stesso minuto che impiegheremmo. Quindi per non fare è pattuito, l'azione. Diciamo, inizialmente, contrattualmente, qualora io volessi uscire da questo investimento azionario, non ho un contratto che mi dice sì, hai il diritto di farlo, in questi tempi anche la banca si impegna magari di acquistare questa quota azionaria. La banca ha delle possibilità di acquistare delle azioni proprie, ma entro certi limiti, favorisce l'incontro fra i soci, però non c'è la stessa rapidità. Io adesso appunto non ho idea, però le lettere che arrivano a Plus ci segnalano ecco. alcune volte, e ne arrivano tante, posso dirvi, segnalano appunto settimane e anche mesi. Per carità, poi ma la soluzione si trova, ci può essere un prestito, però diciamo è un funzionamento che il socio deve sapere. Se sei quotato, in un minuto tu vendi il tuo titolo, è un prezzo che vedi. Nell'altro caso tu devi avere invece un socio certo. entrante, e fra l'altro la valutazione è fatta sui valori patrimoniali di una banca, quindi più alti rispetto a quello che esprime il mercato, come detto annunziato. Quindi non nei prezzi a cui l'hai acquistato il pacchetto azionario, non è che puoi rivenderlo al medesimo prezzo? Tu tenti di rivenderlo al medesimo prezzo, sono i valori patrimoniali quelli che fanno riferimento, però noi sappiamo che il mercato in questo momento, certo. nonostante le banche abbiano valori, abbiano edifici, abbiano tantissime partecipazioni, prezzano, come si direbbe enunziato, cioè prezzano il valore della banca meno di quanto è il valore. Allora, faccio reintervenire Nicola Nunziata su questi aspetti, peraltro siamo proprio in un momento molto caldo per il settore bancario, anche in virtù delle decisioni prese ieri dalla Banca Centrale Europea, questa massiccia emissione di liquidità nel sistema che passerà anche attraverso le banche, abbiamo poi gli organismi europei che continuano ad alzare i paletti di patrimonializzazione delle banche stesse, quindi sarà un anno probabilmente interessante per questo settore, anche come investitore professionale, ma se vuole anche darci una provocazione, una suggestione per quello che riguarda il piccolo investitore, come si deve guardare a questo settore in questo 2015? Già queste notizie hanno rimesso in moto tutti i titoli, e secondo lei, senza chiederle naturalmente di farci dei nomi, un processo di consolidamento del settore in Italia quest'anno è auspicabile? È possibile? Succederà qualcosa? Ma il settore bancario è un settore maturo che è stato, come dire, aggredito, se così vogliamo, da una trasformazione tecnologica che l'Italia non ha ancora pienamente abbracciato, e questo avverrà velocemente nei prossimi anni. Quindi, e non è di per sé negativo, cioè nella prima fase è negativo perché il management non sa che cosa deve fare. Quando il management capisce come comportarsi, può essere anche un'opportunità. Ora è vero che le banche hanno poco margine di interesse con i tassi che sono andati dove sono, però è vero anche che se si riuscisse a riattivare l'economia, parlo dell'Europa, parlo anche dell'Italia, le banche ritornerebbero a fare quattrini. Quindi è un qualcosa che va fatto molto consapevolmente. Voglio dire, il governo sta cercando di smuovere delle cose. L'Italia stava andando in una sorta di agonia lenta, ma neanche tanto lenta, con il PIL tornato dai valori degli anni 90. Il sistema bancario è stato travolto da tutto questo, perché nel 2008 sì, sembrava stato un po' responsabile, e poi ne è stato successivamente anche travolto. Vittima, ecco. Sì. E a questo punto bisogna smuovere delle cose e fare delle riforme, ovviamente qualcuno può soffrirne inizialmente, però poi cerchi di prendere il lato positivo. Allora, se tu ti adegui a quella, alla best practice europea, sicuramente fai un passo avanti, perché non è che gli investitori internazionali, le banche internazionali sono già come dire, negativi per definizione. Avere dei criteri più oggettivi nella concessione del credito è un passo avanti. Io penso che oggi in Italia, indipendentemente che tu sia Popolare o SPA, se sei due persone con l'idea più brillante del mondo, i soldi non te li danno, certo. mentre banche estere invece in molti casi li danno. Quindi ben venga un po' anche tutto questo movimento. In ogni caso, anche se lei non mi vuole rispondere sul tema del possibile consolidamento bancario, quindi una nuova stagione di aggregazioni intese. Adesso si candida Paolo Zucca. Comunque un anno di restyling per qualcuno ce l'abbiamo di fronte. No, ma il settore maturo deve consolidare, cioè non ha senso avere tanti attori piccoli, deboli e fragili. È meglio avere delle grandi banche che funzionino bene. Poi è chiaro che nelle grandi banche, se il management non funziona, sarà sostituito con più velocità e più facilmente, anche perché chi fa il mio lavoro non deve essere visto come un cattivo. Chi fa il mio lavoro spesso vuole riequilibrare delle situazioni patologiche che si stanno creando. Allora, se una società è gestita male, questa cosa viene fatta presente in maniera... Diciamo che è un po' un dottore. Certo, però diciamo che i manager delle banche non brillano proprio per la velocità di staccarsi dalla sedia sulla quale siedono. Ecco, questa l'ho detta io. Allora, rapido. Angelo, buongiorno, dalla provincia di Milano. Buongiorno. Telegrafico. Io sono incorrentito un socio di una banca del credito cooperativo della provincia di Milano e devo dire meno male che all'ultimo momento il Consiglio dei Ministri non ha inserito le BCC all'interno di questo decreto, perché credo che le banche del credito cooperativo, a differenza di molte altre banche, in questi anni qua di crisi hanno fatto comunque molto sul territorio, per le piccole imprese, per le cooperative, per il mondo del no profit, e credo che l'essere tornati indietro rispetto ad una previsione che poteva inserire le banche di credito all'interno di questo decreto sia stato abbastanza positivo dal mio punto di vista. Grazie Angelo. Chiedevo all'esperto se questo non ingresso delle BCC in quest'ambito di questo decreto qua lo vede positivamente o negativamente. Un flash da Paolo Zucca e Nicola Annunziata. Paolo. No, benissimo, fra l'altro io sul decreto, l'utilizzo del decreto legge per intervenire su questo tema bancario, io ho qualche perplessità, credo che le emergenze siano state altre in queste settimane, terrorismo e altre cose, comunque è stata la scelta del decreto legge, lasciarne fuori, lasciare spazio al dibattito secondo me è molto meglio. Ma c'è una scelta precisa per cui, Nicola Annunziata, il mondo del credito cooperativo non è stato coinvolto in questa rivoluzione? Ma sono banche mediamente molto più piccole, con meno attivi, meno rischiose dal punto di vista sistemico e sicuramente delle banche molto più tradizionali da un certo punto di vista, nel senso la finanza viene al secondo posto, il credito e il rapporto col cliente viene al primo posto. E poi gli investitori istituzionali non investono nelle banche di credito cooperativo, mentre gli investitori istituzionali, che sono un punto di riferimento esplicito di Renzi eccetera, investono e come nelle banche popolari. Esatto. Molto bene, allora noi seguiremo questo processo, poi vedremo nel giro di un paio di mesi appunto come il Parlamento discuterà di tutto questo argomento, come convertirà in legge questo provvedimento, come verrà emendato, chi si metterà di traverso, chi invece lo agevolerà. Quindi Nicoletta, un sacco di temi per i prossimi mesi. Sì, intanto noi siamo qua, giorno dopo giorno seguiamo l'attualità ed entriamo nelle vostre case. È tempo dell'attività sportiva. Sì, ci dobbiamo muovere un po'. Grazie a Paolo Zucca e Nicola Annunziata. Buon lavoro e buon weekend. Buona giornata. Cuore e denari. Mi fai stare bene, mi fai stare bene. Il cuore, Deborah, mette il buon umore, è rilassante, stimolante, che appagante. Clive Owen, il mio attore preferito. Non proprio, non conosce la noia, rende, fa sentire migliori, anche a volte più belli, mantiene giovani. Però non parliamo d'amore, ma di una relazione altrettanto vitale, appassionante, quella che spinge molti di voi a correre, a montare in sella ad una bici, a giocare a calcetto, a tennis, ad arrampicarvi in montagna, a nuotare. Insomma, ad allenarvi nonostante il tempo, a trovare il tempo per farlo, a stringere magari i denti per andare più forte, a mettercela tutta per superare i momenti difficili. Ci sono anche praticando l'attività sportiva. Voi vi riconoscete, chiamateci. Oggi cerchiamo di capire se rapporto, il vostro rapporto con l'attività sportiva è salutare o se ci sono dei segnali di crisi. Nelle storie d'amore dicono che ci sia la crisi del settimo anno, forse la crisi con il proprio sport arriva prima, magari non arriva se siamo abbastanza capaci di intercettare i segnali, gli scricchiolì. Oggi abbiamo due esperti che ci aiutano, la dottoressa Laura Bertelè, finalmente in studio. Finalmente, guarda, la mia spalla già sta già meglio, solo a guardarla la dottoressa. Ci fa nuove. Fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di un libro che a cuore denari è diventato veramente bestseller. Ascolta e guarisci il tuo corpo, edito da Mondadori. Non presentiamo il nostro classico amico. Facciamo un test agli ascoltatori per vedere se lo riconoscono. C'è una parola che l'ha reso molto famoso tra gli ascoltatori di Cuore Denari, certo. E prima di essere benessere. Il segreto è la gradualità. Allora, volete riconoscere? Chiamatecelo. Il dottor Franco Confalonieri, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Dottor Confalonieri, praticare con passione uno sport produce effetti nella mente e nel corpo che a livello biochimico sembrano sovrapponibili, con dovute differenze, a quelle studiate dai ricercatori impegnati a scoprire la chimica dell'amore. Sì. Diciamo che purtroppo nel mondo dello sport la crisi più delle volte non arriva al settimo anno, ma addirittura al settimo giorno. Uno comincia e si accorge che è diverso che si suda da come sembrava, e dopo la prima settimana molla. Però è vero, è assolutamente vero, nel senso che l'attività fisica determina dei cambiamenti, delle modificazioni a livello neuroendocrino, con la liberazione di tutta una serie di sostanze che producono benessere a livello psichico, e nel tempo possono anche creare una sorta di dipendenza. Quindi da questo punto di vista c'è una chimica positiva, almeno come quella dell'amore, che funziona. Poi naturalmente si tratta di scegliere lo sport giusto e farlo con i tempi e con i modi giusti, ed è quello che cercheremo di fare oggi con il suo aiuto e con quello della dottoressa Bertelè. Dottoressa Bertelè, lei infatti ci aiuterà ad individuare i rischi e i segnali di pericolo di questa relazione. Sappiamo che non c'è l'uomo ideale, forse non c'è neanche la donna ideale, e quindi non esiste lo sport perfetto. C'è quello che ci piace, che ci appassiona, per il quale ci sentiamo favorevolmente portati, ma come in ogni relazione ci possono essere dei momenti di crisi che però possiamo anticipare. Comunque a lei il compito oggi di aiutare i nostri ascoltatori a capire se il loro allenamento, il loro rapporto con lo sport è veramente protettivo e preventivo. Sì. Come in ogni relazione l'importante è ascoltare, cioè non dare per scontato niente, e quindi anche rispetto allo sport non decidere con la testa faccio questo e lo faccio così, lo faccio per questo tot tempo, tutti i giorni, con il ritmo che io decido. Ma come anche nelle relazioni è importante ascoltare il corpo, che è sempre più intelligente della testa, e quindi ascoltare il nostro corpo, sentire se ha voglia di fare quel movimento, se sta bene, se ha un minimo di disturbi, e fare attenzione all'inizio dei disturbi, perché come anche nelle relazioni, quando si lascia andare e si fa finta di non sentire, alla fine c'è compromessa la relazione, e anche nello sport è la stessa cosa. Allora, questa seconda parte di trasmissione vuole dare l'opportunità agli ascoltatori di ricevere dei consigli mirati, e quindi diamo subito la parola a Maurizio, che ci chiama da Udine, e poi andiamo, Deborah, a casa tua. In provincia di Ancona ne abbiamo uno al giorno, non c'è niente da fare, siamo irresistibili nell'anconetano, ma anche in Toscana andiamo alla grande. Maurizio, buongiorno. Maurizio, benvenuto. Buongiorno, salve. Allora, niente, la mia esperienza è questa. Io sono sempre stato un tipo sportivo, fin da giovane facevo attività agonistica, anche sul podismo. Poi, dopo che mi sono sposato, ho lasciato un attimino perdere per alcuni anni, e mi capitavano spesso come dei mal di testa, specialmente la domenica, così mal di schiena, eccetera. Se anche un giorno mia moglie mi ha regalato una bicicletta, da lì è cominciato tutto. Ho praticato questo sport, la mountain bike in questo caso, sì, anche a livello agonistico, perché i risultati pian piano abbiamo, ho cominciato con così per divertirmi, sì. E poi cominciando a praticare le prime gare venivano fuori anche alcuni risultati e anche di livello, e a un certo punto sono arrivato a un certo livello. Ecco, devo dire che effettivamente sono passati il mal di testa, è passato il mal di schiena, endorfine al massimo dopo le gare, perché è un il suo matrimonio va comunque a gonfie vele. Maurizio, questo silenzio perché non mi ha risposto? Il suo matrimonio comunque va a gonfie vele. Ah, scusi, non avevo sentito. Sì, sì, sì, ah, il matrimonio, vedi? Va benissimo. Ah, certo, certo, perché? Perché per fortuna dagli allenamenti si riesce a alternare anche la vita matrimoniale. Devo dire che c'è anche una certa un certo sacrificio, perché molte volte vado fuori la sera con il fanalino oppure la mattina presto. Quindi, insomma, un cambiamento, Maurizio, direi molto positivo. Infatti Maurizio, dottoressa Bertelè, raccontava: avevo tutta una serie di problemi, disagi, mal di testa, acciacchini, esco in mountain bike e tutto sparisce, anzi ottiene anche dei risultati. Beh, bene per lui, nel senso che è importante trovare l'attività che ci fa star meglio sotto tutti i punti di vista. Faccia attenzione all'età che cambia, ecco, questa è una delle cose a cui fare attenzione, che appunto uno non può mantenere gli stessi ritmi quando ha 30 anni e quando ne ha 50. Teniamo conto che con gli anni bisogna pensare che ci possa essere una faticabilità maggiore. È tutta una questione di equilibrio e di equilibri, esatto, giochiamola esatto. Così. Dottor Confalonieri, quando parliamo di attività sportiva parliamo di allenamento aerobico e allenamento anaerobico, nonostante i due tipi di esercizi suonino simili, sono molto differenti sia dal punto di vista degli effetti che dei potenziali, limiti o rischi. Diamo qualche indicazione. Sì, diciamo che l'allenamento aerobico è l'allenamento di resistenza, quello in cui utilizziamo come fonte energetica meccanismi che dipendono dall'ossigeno, e gran parte delle attività raccomandate sono attività di tipo aerobico, come la corsa o la mountain bike praticata dal nostro amico. Gli allenamenti di tipo anaerobico sono quelli invece più intensi, ecco, il tennis, il calcetto o questo tipo di attività hanno anche una componente anaerobica, indubbiamente sono più a rischio per l'apparato cardiovascolare e anche meno allenanti. Sono sicuramente più gratificanti, quindi in una visione di equilibrio e di benessere globale gratificano di più la parte mentale e meno quella fisica. Poi c'è tutto un discorso sulla forza, che prescinde dall'aerobico e dall'anaerobico, è la capacità che comincia a decadere già a 20 anni, quindi dobbiamo lavorarci, però attenzione. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Debora, riprendiamo di corsa perché il tempo è tiranno. Vogliamo rispondere a tutte le domande dei nostri amici che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Grande soddisfazione, perché oggi cerchiamo di mettere un po' i puntini sulle i. Allora, abbiamo due medici, il dottor Franco Confalonieri e la dottoressa Laura Bertelè. Siamo tutti d'accordo che bisogna muoversi per stare bene, però bisogna muoversi nel modo giusto e per i tempi giusti. Diamo, dottor Confalonieri, qualche indicazione. Ad esempio, leggevo che sono state un po' messe in discussione le linee guida del governo britannico e del governo inglese, che suggeriscono 150 minuti di sport a settimana. Qual è la durata e la quantità di ore dedicate all'attività sportiva? Noi partiamo con i 30 minuti di camminata, ma... Beh, diciamo che innanzitutto qualsiasi incremento è salutare, quindi se partiamo da zero, anche fare mezz'ora una volta alla settimana crea un beneficio importante. Questo è il primo punto. L'obiettivo potrebbe essere quello di dedicare circa 45-60 minuti 2-3 volte a settimana all'attività sportiva come obiettivo minimo. La regola, che io non mi stancherò mai di ripetere, è partire dall'analisi dell'organizzazione della propria settimana, vedere quanto tempo abbiamo a disposizione per fare sport senza stravolgerla e cominciare a dedicare allo sport un terzo del tempo che abbiamo a disposizione. E questa è la regola base, perché partendo con un terzo noi avremo modo poi gradualmente di aumentare la quantità di tempo dedicato, quindi non sovraccaricheremo all'inizio e quello che faremo sarà sempre efficace. Dottoressa Bertelè, lei incontra invece gli sportivi che si sono lasciati un po' prendere la mano, sportivi amatoriali che stringono i denti, sono diventati piacevolmente dipendenti dall'attività fisica, sappiamo che il movimento mette in circolo le endorfine, e anche magari portati dal desiderio di fare meglio e di più, si allenano, insomma non scendono mai. Quali sono gli sportivi più a rischio? Ciclisti, runner, tennisti? Ma ogni sport fatto eccessivamente può creare problemi, ad esempio il tennis sicuramente sollecita moltissimo le ginocchia. Per quanto riguarda i runner, dove bisogna fare attenzione alle fascite plantari, quando ci sono degli spironi calcaneari, le cosiddette talagie, talloniti, perché appunto c'è questo appoggio soprattutto per chi corre sull'asfalto. Quindi ogni sport può creare dei problemi, l'importante è fare attenzione, cioè a non esagerare quando incominciano ad esserci primi disturbi alle ginocchia, alle anche, alla schiena, al collo ad esempio per i ciclisti, fare attenzione e fermarsi e vedere se è il caso di fare un riequilibrio muscolare, una riarmonizzazione. Ma dove vai? Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Affascinante, intelligente, ecologista, altruista, generoso. Secondo uno studio, un quarto degli inglesi pensa che i ciclisti abbiano tutte queste doti. Sarà per questo che si vedono sempre più bici in giro anche in Italia. Nel 2011 l'acquisto delle bici ha superato quello delle macchine. Dottor Confalonieri, lei è venuto in bici? No, io non sono venuto in bici, io sono venuto a piedi. Riprendo un attimo il discorso del camminare, c'è un altro numero che tutti potremmo prendere come riferimento e sono i 10.000 passi quotidiani, semplice per tutti, basta un contapassi, c'entra tutto quello che facciamo per lavorare, per andare al bar, per andare a prendere i bambini, e questo già è un input importantissimo per la nostra salute. Bicicletta sì, io direi soprattutto durante il weekend, nel senso che la bicicletta ci consente rispetto alla corsa o al cammino di fare uscite più lunghe, più piacevoli, perché c'è questa variazione, certo, di paesaggio che è molto bella e significativa, e quindi di fare di quel lavoro di durata un'ora, un'ora e mezza senza grosso sovraccarico a livello articolare, che è estremamente efficace per il sistema cardiovascolare. E noi abbiamo Simone che ci chiama dalla provincia di Ancona, poi andiamo a Sandro da Roma, 800 24 00 24, chiamateci, per voi, per ciascuno di voi una risposta dei nostri esperti, cercheremo di dare spazio a tutti. Simone, benvenuto. Buongiorno. A tutti. Niente, io faccio una piccola premessa, ho giocato a calcio per circa 30 anni, poi per motivi lavorativi e familiari ho smesso, per circa un anno ho fatto un po' di corsa, poi mi sono buttato in mountain bike. Sempre per motivi di lavoro non riesco quindi ad uscire durante la settimana e faccio un'uscita domenicale di circa 4 ore con 60 chilometri. E niente, io volevo chiedere se al mio fisico, e quindi è una, diciamo, una giornata abbastanza spinta per me, sì. Io volevo chiedere se al mio fisico fa bene o male fare, diciamo, queste uscite domenicali e basta a determinate andature, una sorta quindi di indigestione tra virgolette, no? Come, esatto, se uno mangiasse bene una volta alla settimana e poi nel resto facesse dei digiuni. Dottoressa Bertelè, guardi se le fa bene, nel senso le fa bene se sta bene, per cui se invece ha una sensazione di affanno, di tachicardia, cioè di accelerazione del battito, di stanchezza quando torna a casa, il giorno dopo non sta bene, sia come stanchezza sia come dolore muscolare, vuol dire che è esagerato, quindi non c'è una ricetta assoluta, è assolutamente individuale. Faccia conto che ad esempio se in un periodo di stress fisico e psichico lo sforzo fa acidificare ancora di più il sangue e quindi rischia di affaticarlo ancora di più. Tenga conto di come sta e si ascolti, appunto. Dottor Confalonieri, un consiglio per Simone, ma per tutti coloro che devono, per una serie di ragioni, concentrare l'attività sportiva il sabato o la domenica, e parliamo di un'attività sportiva abbastanza intensa. Perfetto, proprio quello che avevo in mente. Siccome è una situazione legata a tantissime persone, io direi è molto semplice abbinare questa attività lunga durante il weekend con 15-20 minuti di ginnastica preventiva e di riequilibrio muscolare o posturale, fatta anche soltanto a casa, consigliata da un medico sportivo, da un fisiatra specialista, che ci consente di stare bene, di mettere a posto il nostro corpo e di prevenire gli eventuali effetti collaterali legati alle 3-4 ore che dedichiamo allo sport la domenica. Quindi sicuramente abbiniamo 12-15 minuti 2-3 volte a settimana a casa con l'uscita lunga domenicale. E come preannunciava Nicoletta, ci ha raggiunto anche l'amico Sandro da Roma. Sandro, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ci dica tutto. Senta, nello spirito della vostra trasmissione, ovvero del benessere fisico, volevo chiedere se è preferibile, anche se in qualche modo avete risposto, fare un'attività fisica di breve durata e non troppo spinta tutti i giorni, oppure concentrare in pochi giorni a settimana, 2-3 giorni, un'attività più intensa e di più lunga durata. Premesso anche che, tempo permettendo, io faccio mountain bike e canoa, concentrate però in pochi giorni a settimana. Grazie. Grazie Sandro, già scelto, ma ci chiede una conferma, dottor Confalonieri. Primo, va benissimo l'abbinamento della bici con la canoa, perché sono sport complementari sia dal punto di vista muscolare che dal punto di vista organico. Secondo, la prima regola è: facciamo quello che risulta comodo con la nostra vita, guardiamo il benessere globale, lo sport non deve essere uno stress. Se ci viene più facile farlo durante il weekend e basta, lo facciamo durante il weekend; se ci viene più facile farlo mezz'ora tutti i giorni, facciamolo mezz'ora tutti i giorni. È chiaro che una frequenza di almeno 2-3 volte a settimana sarebbe l'ideale. Allora, una richiesta di aiuto arriva da Bari, ce sì. La scrive Pasquale al 349-238-6666. 28 anni, da un anno ha avuto un cambiamento di vita drastico, passando da obesità, fumo, alcol, alla dieta e tanto sport. È runner, in questo anno è arrivata a realizzare il suo sogno, fare la mezza maratona, però adesso deve fermarsi per una lesione al tendine rotuleo. Allora, Pasquale, come tutti i runner, come tutte le persone sportive, è un po' freme, perché vorrebbe ritornare presto a muoversi e ad allenarsi. Lui ci chiede se è vero che servono 3 mesi di stop per la guarigione, e tra le righe leggo che a lui questo tempo sembra molto lungo. Ma più che lo stop, bisogna equilibrare i muscoli, perché quando c'è una tendinite del tendine rotuleo o anche una condropatia, che è una conseguenza, cioè una sofferenza della cartilagine della rotula, vuol dire che c'è stato un eccesso di potenziamento dei muscoli flessori delle ginocchia. Quindi non è tanto fermarsi quanto, come diceva prima il dottor Confalonieri, riequilibrarsi. È fondamentale fare un lavoro di riarmonizzazione muscolare, di riequilibrio muscolare, non è tanto lo stop e basta. Se no, quando riprende, si ritrova da capo. E quindi, vedi, come dicono i tuoi esperti, anche nel fitness bisogna diversificare. Certamente, per quello che riguarda la riabilitazione, poi diciamo dopo uno stop, la riabilitazione va fatta su più livelli, sostanzialmente. Certo. Il dottor Confalonieri è l'unico uomo, lasciamogli un attimo di spazio. Dottor Confalonieri. No, un brevissimo inciso, perché la storia del nostro ascoltatore è paradigmatica. Io ne incontro tutti i giorni analoghi. Allora, alcol, obesità, inattività. Di colpo si abbandona tutto, ci si mette a correre, si fa la mezza maratona. Non va bene. Cioè si passa... Un anno non è un tempo sufficiente. No, si passa da una dipendenza all'altra. Io capisco che poi sia diventato una sorta di marchio di fabbrica, quasi una presa in giro il mio discorso di gradualità, ma dietro ci sta un concetto che ritengo fondamentale. Cioè, se abbiamo abitudini di vita sbagliate, dobbiamo correggerle gradualmente. Non si può passare dal bianco al nero, dal tutto al nulla, perché si passa davvero da una dipendenza all'altra con una serie di effetti collaterali. Quindi riduciamo l'alcol, riduciamo il cibo, iniziamo gradualmente a fare attività e un po' alla volta arriveremo a una situazione di sanità totale, quindi soltanto lo sport senza più vizi, forse, ma comunque gli effetti che otterremo saremo stabili, perché qua non sarà il rischio del nostro ascoltatore, ma il rischio generale qual è? Ho compensato con la corsa, non posso più correre perché ho un infortunio tipico qua del tendine rotuleo, ritorno alle mie abitudini precedenti per compensare e alla fine mi sono fatto soltanto del male. Allora, lei ha parlato di dipendenza e a microfoni spenti, sia lei, dottor Confalonieri, che la dottoressa Bertelè, dicevano a me e a Deborah quanto sarebbe importante mandare questo messaggio. L'allenamento, quando diventa troppo eccessivo, quasi un qualcosa che compensa delle mancanze. Quali sono i segnali che chi si allena tanto deve tenere d'occhio e per capire che l'allenamento sta diventando eccessivo e quindi una sorta di dipendenza? Chi dei due vuole rispondere? Un omaggio alla signora. Un omaggio alla dottoressa Bertelè. Beh, dal punto di vista muscolare bisogna fare attenzione se ci sono degli indolenzimenti. Ad esempio, quando dopo un allenamento la mattina ci si sveglia e si è completamente rigidi, vuol dire che si è esagerato, che si sta andando al di là delle capacità del corpo dal punto di vista muscolare. Possono esserci poi dei veri e propri dolori. Fate attenzione alla regione cervicale, alla regione lombare, agli inguini, che sono un allarme di problemi di anca, alle ginocchia, alle tendiniti dei piedi. Sono tutti degli allarmi a cui fare attenzione. Che alle siamo spalle. Alle vero? Spalle, esattamente. Sì. Quando uno incomincia a fare fatica a fare dei movimenti che prima faceva le donne, ad esempio, uno dei segnali principali fa fatica a lasciarsi il reggiseno, oppure si fa fatica a alzare il braccio. Cioè, si fa fatica a fare la marcia indietro perché il collo è rigido. Ecco, alla rigidità. Alla rigidità, e allora insieme a Debora e la dottoressa Bertelè, dopo facciamo, la trasmissione facciamo un piccolo video per capire se siamo rigidi o flessibili, per dare delle indicazioni. Segnale molto pratico: quando comincio a diventare dipendente, se torno a casa e invece di chiedere a mio figlio com'è andata, cosa c'è per cena e magari dar fastidio a mia moglie perché non sta preparando il piatto giusto, mi metto su internet e vado a guardare il calendario delle gare, i programmi di allenamento o a discutere sul social con quello che hanno fatto gli altri runner o gli altri ciclisti, vuol dire che sono diventato dipendente e le cose non vanno bene. Io ho un altro segnale invece, se mi rimetto a fare importante subito la borsa per il giorno dopo per tornare in esatto palestra, ci stavo adesso pensando, ecco, disfogo la vecchia e rifaccio esatto, quella nuova. Bravo. Allora, dove andiamo? Andiamo da Antonio, da Napoli, perché è molto interessante, perché c'è questa, mi viene da dire, un po' terapia sostitutiva dello sport, che qualche il cambiamento, adotta. Cambio. Antonio. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Salve. No, volevo chiedere, non so se è una domanda banale o almeno è stata assolutamente già... Pare che ci sono, le domande sono sempre, non possono mai essere banali. In sostituzione causa tempo, l'orario d'ufficio di mia moglie è molto lungo, quindi in sostituzione di una passeggiata oppure di una corsa, volevo sapere il tapis run se aiuta, diciamo almeno nei minimi movimenti, nelle piccole cose. Mia moglie dice compriamolo, vediamo un po' cosa riesce. Allora si compra a casa di Antonio questo tapirulan, facciamo un breve consulto. Dottor Confalonieri, sì? No? Aspettiamo? Diciamo che sul piano fisiologico va bene, cioè sul piano dell'allenamento cardiovascolare camminare sul tapirulan sicuramente ha degli effetti benefici, però se io trovo il tempo per camminare sul tapirulan trovo il tempo anche per alzarmi mezz'ora prima la mattina e andare a comprare il giornale all'edicola lontana e ho camminato in un contesto più piacevole. Allora, sì. Andiamo, prima adesso di sentire Marta, c'è un messaggio che ci manda al 349-238-6666 Giada da Milano. Sì, Giada, che non trovo Nicoletta, ti allora, devo dire, non riesco a trovare il messaggio. Aquatonic. Sì. Martedì, corsa fitness. Mercoledì, qualche volta bici. Ah, eccola qua, sì. Giovedì, corsa fitness, nuoto libero. Venerdì, riposo. Sabato, leggera corsa. Domenica, corsa lunga. Troppo? Ma se sta bene, Giada. Io dico troppo, io dico troppo. Bisogna andare anche a ballare, guarda, ecco, vedere un'amica, sì, sì, lo shopping, frequentare un moroso, un po' di soldi, andare al cinema, ma andare lo a fa teatro. È tanto. Secondo me, ecco, il ballare è una cosa su cui bisogna. Un po' di tai chi? Ecco, tai chi. Senz'altro ne può fare quanto ne vuole che non dà problemi, ma anche ballare perché ci si scioglie. Ecco, io penso che sia molto importante anche avere quest'idea di non avere un corpo rigido e di non appunto imporsi una programmazione come se fossimo al lavoro, invece fare anche delle cose molto piacevoli che ci permettano anche di incontrare delle persone di... E perché il ballo, ecco, guarda, punto. C'è qua, ah, si è formata la comunità dei golfisti, Nicoletta, ma qua dobbiamo fare una puntata apposita, perché è uno sport un pochino costoso, perché non è che sia proprio banale. Dottoressa Bertelè mi ha fatto un gesto, fa male alla schiena? No. Sì, io ho fatto una vacanza in un centro di golf in Marocco, quindi ad Agadir, e potevo stare lì tutto il giorno a vedere le patologie delle persone che passavano. Però lei non ha detto che era medico. Potevo mettere il banchetto, però portata a casa la ricerca. Marta, buongiorno, possiamo chiudere velocemente con Marta che ci chiama da Verona, chiudiamo in bellezza. Eccomi qua, buongiorno a tutti quanti. Io volevo chiedere, io faccio praticamente un'ora e mezza di Tai Chi e un'ora e mezza di yoga a settimana, però volevo sapere se per il fisico sarebbe più consigliabile fare anche qualcosa di più convenzionale, che ne so, bicicletta, uno sport un po' più... Allora, uno sport un pochino più... Allora, aerobico. La dottoressa Bertelelli, no, ce la mandiamo a correre, abbiamo pochissimi... Assolutamente pro Tai Chi, perché lo faccio da 15 anni e mi ha aiutato tantissimo su tutti i punti di vista. Se lei sta bene così... vado avanti così, perché aggiungere altre cose? Scriveteci, gireremo. Un po' di aerobico gli servirebbe però per il cardiovascolare. Finiamo con una piccola polemica. Pensiamo un po' di equilibrio. Dai, pensiamo anche un po' al cuore. Grazie, se avete dubbi, domande, storie, scriveteci. Debora, noi cosa facciamo? Torniamo lunedì. Andiamo a preparare la puntata per lunedì prossimo. Allora, salutiamo Paolo Corleoni, sì. Ringraziamo in regia la parte tecnica, Marco Lombardo, Isotta Scenna, e tutti i nostri quanti, esperti. Certamente, che invitiamo a ritornare prestissimo. Voglio parlare del golf io, Nicoletta, non so se è una buona idea. Mi sembra di sì. Ottimo.